Did you get the picture? Nothing too complicated there. In this next dialogue, a woman is asking for directions to the train station. But as you'll hear, it's not as close as she expected. Listen. Scusi, per andare alla stazione, per favore. La stazione ferroviaria o la stazione degli autobus? La stazione ferroviaria. Sì. Lei prende la prima a destra. La prima a destra? Sì, signora, la prima a destra. Poi continua dritto fino al museo. Dritto fino al museo? Sì, dritto fino al museo. E gira a destra dopo il semaforo. Giro a destra dopo il semaforo. Sì, signora, la stazione è sulla destra. La stazione è sulla destra, giusto? Giusto. È lontano? No, signora, è a 20 minuti da qui. 20 minuti? Ma io sono a piedi!